in certi sport, tranne il calcio. Sì. E quindi lui aveva trovato una via di mezzo, ha creato, diciamo, le premesse perché non si parlasse più di dilettanti puri, che la gente si inalberava quando qualcuno prendeva un premio, ma siamo entrati in una fase molto più civile in cui uno sforzo viene anche premiato, certo, perché poi sì, nella vita serve. Ma lui oltretutto poi nella vita se l'è cavata egregiamente. Gianni, ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Grazie a Gianni Merlo. Dunque 800240024, beh, adesso tocca a voi. Già ho ricevuto un sacco di messaggi, 349-238-6666, lontani dalla retorica, ma ricordando in piedi un grande sportivo, un grande uomo. Strade. Tutti convocati. 800240024. Scrivete anche su Twitter, Alberto, un ricordo su Mennea, la grafica che ogni gara ricordava il record a 19,72. Davide Cervini, quando all'estero mi prendono in giro per le nostre magagne, una delle pezze cui ricorro è Pietro Mennea, ma uno dei messaggi più ricorrenti, insomma, chi di voi a una certa età se l'è sentito dire almeno una volta nella vita, ma chi sei, Mennea? Ero un bambino e quando uno correva si era soliti gridargli così. Questo è il mio ricordo, saluti Luca da Arese. Da piccolo lo odiavo, i miei amici mi chiamavano Pietro perché mia madre mi metteva sempre i calzoncini corti e dicevano che sembravo Mennea. Poi ho capito quale complimento mi stavano facendo, è morto un pezzo del mio passato. Stiamo lontani dalla retorica, ma è bello ricordare un grande sportivo anche con il sorriso, anche se può sembrare stridente, però secondo me è bello così, con una canzone viva come Run to You, come avete sentito. Vittorio Napoli, 800 24 00 24, numero verde. Vittorio, buongiorno. Vittorio da Napoli è scomparso e allora andiamo a Prato, dove c'è Domenico. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sono nato nel 1960, quindi mi ricordo le imprese di Mennea. Anno sempre... olimpico. Sì. Olimpiadi di Roma. Dica. Quello che mi impressionava sempre di questo ragazzo è che sembrava molto, molto gracile, molto rispetto agli altri, no? Fisicamente meno strutturato. Però questo insegna, secondo me, ai velocisti di oggi veramente il professionismo. È stato veramente un grande professionista. Sì. Anche nella vita, come Domenico, anche nella vita, come ricordava prima Gianni Merlo, e anche su questioni importanti come quelle della necessità di essere remunerato per essere un grande sportivo professionista, perché anche questo deve far parte del gioco degli sportivi professionisti che dedicano la loro vita comunque allo sport, no? Sì, quello è vero, è anche un antidivo. Se lei guarda i velocisti di oggi, come si atteggiano prima della partenza, come anche dopo magari si vincono, invece lui era veramente un professionista serio, e battere gli atleti di colore in quel periodo non era semplice nemmeno oggi, figuri in quel periodo lì. No, oggi praticamente impossibile, a quell'epoca quasi, però abbiamo già ricordato con Gianni Merlo come 1972 fu un salto nel futuro, cioè come aver preso la DeLorean, la famosa macchina del tempo di ritorno al futuro e aver fatto un viaggio, perché quel tempo fu, ripeto, un tempo fuori dai tempi. Poi sull'atteggiarsi Mennea era personaggio a modo suo, a me non dispiacciono quelli di oggi, a me non dispiace Usain Bolt e la sua allegria, non dispiace Usain Bolt e la sua esultanza, il fatto di essere personaggio, quindi non lo leggo in chiave negativa. Pietro Mennea riuscì a essere personaggio con quel dito indice alzato verso il cielo, dopo aver fatto aver conquistato l'oro a Mosca, dopo aver fatto un primato che, ripeto, nel 79 era un salto nel futuro. Però è riuscito ad essere personaggio anche fuori dalla pista, anche per quello che ha fatto in quello così che ha vissuto poi nel resto della sua vita fuori dalle piste di atletica. Vittorio da Napoli dovrebbe essere tornato. Eccomi. Eccolo. Salve, buon pomeriggio. Nulla, volevo parlare insomma di questa persona che è scomparsa. Io stamattina, oggi, ho appreso questa notizia, sono rimasto addolorato. Ero bambino e si cercava di emulare le gesta di Pedro Mennea. E anche se non ho mai fatto corse del genere, però veramente sembra che sia sparito, sembra che sia morta una persona di famiglia, e sono molto dispiaciuto. Sì, ma sa, io ripeto, fuori dalla retorica, ha rappresentato, cioè, come Paolo Rossi ai mondiali dell'82, come il gol di Turone in cui si è parlato in questi giorni, sono stati dei pezzettini della nostra vita, non solo sportiva, della vita di chi segue lo sport, che come Nick Corby in Febbre 90 possiamo collegare a vari momenti della nostra vita, a varie canzoni. C'è chi preferisce Maledetta Primavera, visto che oggi è il giorno di Loretta Goggi, 1981, chi preferisce altre cose di quegli anni, quindi ricordi sportivi, canzoni, ricordi legati a certe imprese sportive, da Borg ripeto, al gol di Turone, ai gol di Paolo Rossi. Insomma, è tutto un intrecciarsi in questi giorni e in questo giorno di inizio primavera. Quindi io voglio viverlo così, certamente con tristezza, ma anche con il sorriso. Pino da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo portare anch'io il mio contributo a quello che secondo me è stato il più grande atleta italiano. Quanti anni ha lei? 56 anni, quindi ho cominciato. Cosa? Io facevo atletica leggera da ragazzo. Cosa ricorda di Mosca 1980? Ma ricordo che lui era stato in una maniera un po' discutibile, non era molto in forma. E non era il più grande Mennea di sempre in quella Olimpiade lì. Ricordo quel rettilineo finale che mangiò, credo, 5 o 6 metri ad Alan Wells. E fu una cosa sensazionale. Quella vittoria fu una vittoria, molti dissero che non c'erano gli americani, ma lui credo che in quella Olimpiade avrebbe battuto anche gli americani. Era non il più forte Mennea di sempre, però con quella grinta, con quel carattere, con quella forza, lui seppe vincere una medaglia d'oro importantissima, e Alan Wells era forte in quel periodo. Sì. Era fortissimo, non c'erano gli americani, fu l'Olimpiade del boicottaggio, però 1972 è un tempo che è stampato nella storia, quindi americani o no, quel tempo è, ripeto, a tutt'oggi il record europeo. Io ringrazio Pino da Roma, dico a Luca, se non gli va cambi canale, basta col discorso sulla retorica, sei tu che vuole retorico, non mi sembra, però se mi chiami facciamo due chiacchiere, 800 24 0024, non è una minaccia ma un invito. Dario Ricci invece da Ginevra, dove stasera c'è Italia-Brasile che non battiamo dai tre gol che trasformarono Rossi Paolo in Pablito. Ciao Dario. Ciao Carlo, grazie per avermi convocato. Sempre convocato, ma anche lì si ricorda Mennea, no? Come no, innanzitutto il piacere e l'emozione di averlo intervistato più volte, ma poi è un atleta che, come fanno a ricordartelo, anche per quello che è stato oltre all'essere atleta, no? L'avrete sicuramente ricordato, laureato in scienze politiche, avvocato, scrittore, docente universitario, parlamentare europeo, polemista finissimo e che veramente non tirava mai indietro la lingua nel dirla giù dura, come spesso va detta. Veramente oggi credo che se ne è andato non solo un grande campione ma un grande italiano, Carlo, e sì. Stasera non a caso la nazionale lo onorerà con il lutto al braccio, atto dovuto, e ci sarà un velo di tristezza nello stadio di Ginevra pur di fronte a questa grandissima amichevole che ci aspetta. Dario, stamattina c'è stato l'incontro con cui era presente Boateng, non so se è ancora in corso, sì, ancora per la storia in corso, del razzismo, eccetera. Che si è detto? Direi, Beh, direi, ho visto un Boateng ispirato, molto ispirato, emozionato, chiaramente accompagnato dalla fidanzata Melissa Satta, seduta qui proprio nell'aula 19 della sede delle Nazioni Unite qui a Ginevra, da cui vi sto parlando, seduta in prima fila. Ma un Boateng ispirato che ha ricordato il gesto clamoroso per molti aspetti di inizio gennaio nell'amichevole con la propria Busto Arsizio, e che ha svelato anche un retroscena. Ha detto: in quel momento ho pensato allo sguardo di Nelson Mandela che avevo incrociato durante i mondiali del Sudafrica 2010, e quello sguardo mi ha dato in quel momento il coraggio di dire no al razzismo. Un Boateng che ha invitato appunto a dire no, a non far finta di niente. Servono ora però soluzioni concrete e qualcosa si sta muovendo. La FIFA ha messo in piedi una task force antirazzismo, l'UEFA sappiamo è sempre molto attenta, anche perché sono fenomeni che danneggiano il business. Diciamo che un punto di partenza è una mattinata, un pomeriggio, questo da cui si può partire, ecco, senza troppa enfasi, Carlo. Sì. Grazie Dario, buon grazie lavoro. Grazie a voi. Ci sentiamo poi stasera per Italia-Brasile con Dario Ricci, adesso 800 24 00 24. Come se fosse morto un compagno di giochi, vedo i muscoli della sua faccia rallentatore dopo il record, scrive un ascoltatore. Tutti convocati. Allora, questa mail appena ricevuta mi dà l'occasione anche per ricordarvi che oltre a 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, oltre a Twitter avete anche a vostra disposizione una mail, ovviamente tutti convocati una parola sola, è tradio24.it. Chi ha scritto si chiama Luca e la mail è questa: inizio anni 80, quattro ragazzini tra i 12 e i 14 anni malati di sport. Lunghi pomeriggi estivi riempiti con le nostre olimpiadi inventate lungo le strade del quartiere, e quei 100 metri misurati con il metro da sarto, dal palo della luce al tombino in fondo alla via. E poi Sergio, il più veloce di tutti a tagliare il traguardo, con quel dito in alto e lo sguardo rivolto verso il cielo. Ricordo anche i podcast, sì, radio24.it, potete ascoltarci quando volete. Antonio, provincia di Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo lasciare solo la mia testimonianza su Pietro Mennea, perché non tanto lo dico come grande, come atleta, perché già i risultati parlano per sé, quanto piuttosto come uomo nella vita, e quanto sia stato bravo come atleta lo ha dimostrato quanto sia riuscito a essere grande come uomo nella vita. Io sono un suo collega commercialista, nella vita sono riuscito solo a conseguire una laurea. Beh, solo lo metterei tra virgolette. Beh, ma siamo in tanti in quello. Vabbè, lo metterei tra virgolette lo stesso. Ok. E lui invece di lauree ne ha prese 4, le ha prese anche durante un periodo in cui ha fatto sport ad altissimo livello, con un impegno quotidiano, e che è qualcosa di eccezionale, solo quello. E questo effettivamente ci fa sentire tutti nani rispetto a una persona che secondo me è stata veramente un esempio di, con tutto il suo caratteraccio, con tutte le sue polemiche che ha fatto, ma in questo senso è stato veramente un grande uomo. Ecco, sì. Io mi inchino di fronte a questa persona. E se uno non ha caratteraccio, a quei risultati non ci arriva, né su una pista atletica, né su un campo di calcio, né su un campo di qualunque sport, né nella vita, perché alla fine io ho l'impressione che quel caratteraccio sia necessario, sia sintomo di grande personalità, sia sintomo di grande intelligenza anche. E comunque Mennea era tutto questo come tutti i grandi campioni. Roberto Roma, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo dare anch'io un contributo, che per un momento della mia vita ho incrociato questo grande campione su un campo di atletica leggera. Ero giovanissimo, avevo appena 17 anni, mi stavo preparando ai giochi della gioventù di Roma. E come sai, quando si va in pista per fare il fiato, io facevo i 3000 metri in mezzo fondo, ti scegli una lepre. Sì. E io mi scelsi questo ragazzo davanti a me e correvo, ma fiatone, fiancato, non riuscivo a stargli dietro. Quando arrivava il mio allenatore a bordo campo, gli dissi: ma dico, oh, ma questo qui? E lui, ridendo sotto i baffi, mi disse: ma sai chi è quello? Quello è Pietro Mennea. E io sono rimasto veramente, l'ho sempre seguito in tutta la mia vita come riferimento, e veramente sono dispiaciuto di questa notizia. Questo ricordo è bellissimo. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei, Roberto. Però sai che molti dicono che a fine stagione andrai a scambiare la tua panchina con Mourinho. Ah, non lo so. Non lo so, no. L'ultima volta che sono venuto qui. Cosa è successo? Era l'ultimo giorno di Milan, praticamente. Oh, porca miseria, è vero, oggi ti posso confessare che ti avevo detto una bugia, perché ti avevo detto che non sapevo dove andavo. E là fuggevo. Io ho avuto due anni fantastici in Italia, in mio Inter, che non si sa mai se un giorno si può ritornare, però se lo faccio lo farò con grande piacere, con grande emozione. Tenuta salda, quando avevamo 7 punti dopo 8 giornate, credo che cosa sono? 47 punti, sì, 47 punti in 21 giornate abbiano saldato con la fiamma ossidrica la panchina. Conte rappresenta già una forte juventinità, avendo giocato, conoscendo tutte quelle che sono le dinamiche interne, avendo un ottimo rapporto col presidente, con noi dirigenti, quindi può ritagliarsi veramente uno spazio molto molto ampio. Il direttore oggi sentirebbe di dire che Conte resta al 100% l'anno prossimo? Direi di sì. I vostri interventi sono sempre ben accetti e valgono su tutto. 800240024. E prima di questo abbiamo sentito Ancelotti e le sue bugie, Mourinho che va via, il valzer degli allenatori, Allegri saldato con la fiamma ossidrica sulla panchina del Milan, Conte che resta al 100%. Poi intanto balliamo. Andrea Sorrentino, Repubblica. Buongiorno Andrea. Buongiorno, ma perché la tagliata in tutto questo? Non so. Ma perché? Così, perché siamo tutti un po' traviati. Ah, ecco, gli allenatori soprattutto. No, senti Andrea, io e te ci conosciamo da molti anni, abbiamo più o meno la stessa età. Io voglio, prima di parlare del valzer, voglio un tuo personale ricordo di Pietro Mennea. Cioè, un ricordo di quando eri bambino. Guarda, Pietro Mennea è stato il mio primo mito sportivo, guarda, sono anche un po' emozionato. Davvero? È una cosa un po' particolare, sì. È stato il mio primo mito sportivo in assoluto. Non è stato Falcao? No, assolutamente, non è stato calcistico, ma era appunto Pietro Mennea. Il giorno in cui lui stabilì il record del mondo sui 200 metri, il 1972, era il giorno del mio 10° compleanno. Mi ricordo la vittoria di Mosca come una delle gioie più incredibili, sempre dal punto di vista sportivo, della mia vita, con esultanze da stadio. Ecco, questo è il mio ricordo personale. E la cosa molto particolare è che io lo intervistai lo scorso agosto, la sera della vittoria di Bolt sui 100 metri. Sì. E io non so, credo sia stata una delle sue ultime interviste, purtroppo, ecco. Cosa disse? Cosa disse? Disse che Bolt poteva arrivare anche a 9:15, 9:20 sui 100 metri, e tra le varie altre considerazioni disse che l'Italia dello sprint era ferma da 30 anni, sì, e che non c'era modo di... Il che è un dato di fatto. In questo momento sto rivedendo le immagini di quello sprint su 200, numero 433 sulla schiena e su quella maglietta azzurra. Senti Andrea, senti Ancelotti, Mourinho, Allegri, Conte, chi dice bugie? Le dicono un po' tutti, perché questa è la fase più delicata della stagione per quanto riguarda proprio il valzer delle panchine, e c'è chi è sicuro di andare altrove, c'è chi non è sicuro di muoversi, molte cose non possono essere dette perché alcuni hanno già firmato dei contratti per il prossimo anno con altre squadre, ma non possono ovviamente dirlo, ed è una fase molto delicata. Alcuni sono già a casa e sono già sistemati, posso dirti con estrema certezza che ad esempio Carlo Ancelotti allenerà il Real Madrid, questa è una. Quanto a José Mourinho, io sono praticamente certo che andrà in Francia al Paris Saint-Germain, sì, a meno che non accadano cose grosse a Manchester, sponda United, magari con un addio al momento non pronosticabile di Alex Ferguson. E non a caso Mourinho, quando ha eliminato il Manchester 2 settimane fa, se ricorderete, ha fatto i complimenti al Manchester United dicendo anzi che era passata, non era passata la squadra migliore, cioè il suo Real Madrid, il che detto da Mourinho è una cosa assurda. Suona strana, sì, suona strana. Suona molto strana, è come se lui, perché lui comunque quando tornerà in Inghilterra, perché ci tornerà, pensa a quella panchina lì, a quella di Old Trafford, e quindi quello è un suo possibile approdo, ma per quello che si è capito io credo che lui finirà al Paris Saint-Germain insieme al suo amico Cristiano Ronaldo, perché quello è il grande disegno dello sceicco catariota, che credo abbia già sistemato molte cose da questo punto di vista. Andrea, un'ultima cosa, sì, Milan, sì, e Inter restano gli allenatori che ci sono adesso oppure no? Io non credo, Carlo, io non credo, non ho, all'Inter ho quasi la certezza che non sarà Stramaccioni a meno di clamorosi finali di stagione. Per quanto riguarda il Milan, difficilissimamente un allenatore che non è graditissimo a Berlusconi può rimanere molto a lungo su quella panchina, e mi pare che tra Berlusconi e Allegri ci siano state molte frizioni in questi mesi, molti motivi di disaccordo, e quindi io penso che anche il Milan stia pensando a qualcosa per il futuro. Grazie Andrea. A voi. Un abbraccio, grazie Andrea. Ciao. Sorrentino, ciao. Dunque capite bene anche da quanto ci ha detto Andrea Sorrentino quanto possa valere quella fiamma ossidrica di Galliani. Comunque vi aspetto qui, 800 24 00 24, numero verde, strade. Eh sì, io sono convocato domani. Tutti convocati. Fatemi risentire Rato You, per favore. Questa per me è la colonna sonora di questo primo giorno di primavera, 21 marzo 2013. Mia colonna sonora di ogni giorno invece sono le vostre voci, 800 24 00 24. Certo che in giro di gente che non capisce nulla ce n'è un sacco, come Matteo: basta con sti cialtroni pseudogiornalisti filoromanisti. Non so se fosse riferito ad Andrea Sorrentino, che scrive per Repubblica, che vive a Milano da anni e che da anni segue Inter e Milan. Michele Roma, buongiorno. Buongiorno a te. Non poteva essere il giorno più bello oggi per la primavera. Peccato doverlo, come dire, salutare con la brutta notizia della morte di Pietro Mennea. Io l'ho conosciuto di persona e posso, come dire, dire come tutti gli altri, è stato un grandissimo uomo, un grande italiano. Io sono un libraio di Roma, no? Era venuto in libreria a firmare le copie di un suo libro quando era uscito qualche anno fa, ed era, io gli avevo, da meridionale gli avevo ricordato di come quel giorno a Mosca lui disse: un meridionale ha vinto la medaglia d'oro qui a Mosca, e fu io lo ricordammo insieme con un affetto reciproco riguardo alla nostra terra di origine, insomma. È stato un grande italiano, mi va di ricordarlo insieme a tutti coloro che lo hanno già fatto. Tutto qui, Carlo. Michele, allora sai cosa? Io te lo faccio risentire. Ascolta. Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile, e io sono partito con umiltà ed è venuto fuori sto re. Questo anche alla faccia di quelli che giudicano le persone agli interventi in base all'accento. grazie, grazie di questo regalo, davvero, grazie davvero. E di che, Michele? Buona giornata, a presto. A te, Michele, sì. Però ripeto, alla faccia di tutti quelli che giudicano le persone, gli interventi, i commenti in base all'accento, e poi si parla, poi Boateng va a parlare di razzismo a Ginevra. No, vabbè. ma certo. Sono profondamente d'accordo con quello che dici, e noi sbagliamo, come dire, a classificare sempre, come dire, le parti. Quello è razzismo, anche quello, guarda. Ma sì, ma chi se ne frega, cioè, ti ripeto, di gente con il cervello grosso così, e sto facendo il segno zero, anche se non mi potete vedere, ce ne sono tanti in giro. Per fortuna non i nostri convocati. Marco Monza, 800240024, numero verde. Pronto? Ciao Marco. Ah, ciao Carlo, sei il migliore sempre. No, voglio dire due cose del Mennea. Mi prende un po' perché io me lo ricordo Mennea quando facevano il meeting di Milano all'Arena. Aspetta, fammelo rivedere, lo sto guardando. Sto riguardando sugli schermi, sempre con i 200 metri, numero 433 sulla schiena. Dimmi. Erano cose bellissime, perché il meeting era un meeting veramente, quello di Milano. Mi ricordo Don Querry, sì. Pons, la Simeoni, eccetera. E c'era Mennea. Mennea, io me lo ricordo perché ero giovane, la preparazione nei 100 e nei 200 metri di quel meeting lì. Da lì ho capito veramente cosa voleva dire la sua serietà negli allenamenti e nello sport. Bisognava vederlo, era una cosa impressionante. Mi ricordo si accovacciava su se stesso, faceva un po' di, se si può dire, di training autogeno, e poi partiva come un missile nelle sue preparazioni. Era una cosa impressionante, guarda, l'ho sempre stimato come atleta e come uomo. Mi è dispiaciuto, ecco, volevo dire solo questo. Grazie Marco. Ma sai, i velocisti ognuno seguono dei rituali precisi, e ognuno ha il suo, per questo che non a me piace anche la preparazione alla gara, che non è solo una cosa di spettacolo, ma è una sorta di training autogeno, anche quello di Usain Bolt. Poi c'è chi sembra una tigre in gabbia, chi chiude gli occhi e studia mentalmente ogni passo di quei 100 metri. Mennea faceva, ti ringrazio di averlo ricordato, faceva come dicevi tu, si accomacciava e provava le partenze. I velocisti sono macchine da guerra, se mi permettete l'espressione, sono tigri in gabbia, sono atleti che corrono sul filo del rasoio, sono qualcosa di particolare, di meraviglioso, e ognuno ha il suo rituale. Io ho avuto la fortuna di vedere i 100 metri olimpici, e vi assicuro che la preparazione di quei 10 secondi o 9 secondi di quei passi è qualcosa di straordinario. E io ringrazio l'ascoltatore di aver ricordato come Mennea preparava la partenza di quei 100 metri. Carlo, Roma, 800240024, numero verde. 1972, sì. Chiedo scusa un attimo, Carlo. Sono stato travolto dalla notizia, sì. Perché in questo momento Mennea poteva essere enormemente utile alla ripresa dell'Italia. Sì. Mennea ci lascia una eredità e una lezione importante. Io ho avuto modo di leggere il libro 1972 perché ho sentito Mennea in una trasmissione di una radio romana meno di un anno fa, e ho comprato il libro. Nel libro c'è coerenza, impegno, determinazione e sacrificio. Sì, però Carlo, posso dire, io preferisco ricordarlo non con le lacrime, ma, e vi saluto così, con la canzone con cui abbiamo aperto, che secondo me è qualcosa di pieno di vita, come quel 1972 che rimane ancora dentro di noi. Quindi ciao a tutti, ci sentiamo domani alle 2, grazie a Franco Piantani, autore di questo programma, capitan Fabio Cantadori in regia, con l'indice al cielo, Run to You per Pietro Mennea.